buongiorno a tutti e a tutte. Bentornati alla nostra rassegna settimanale qui a Radio Wombat Firenze. Esatto, la terza rassegna stampa di aprile 2018. Oggi siamo il 16 aprile e sono mezzogiorno e 16. Beh, iniziamo parlando di quello che è successo questa settimana. E i riflettori ovviamente sono puntati purtroppo non qui in Italia, dove la situazione è abbastanza stagnante, ma dobbiamo passare oltre le Alpi per vedere un po' di lotte attive che stanno spingendo in avanti. E infatti la situazione francese, nonostante il silenzio quasi totale dei media mainstream nazionali, sta esplodendo decisamente. Nessuno se l'aspettava un paio di mesi fa, quando si era iniziato a parlare quasi della ricorrenza del 68, come se dovesse trattarsi quasi esclusivamente di una celebrazione. Però nell'ultimo mese veramente possiamo dire che, partendo dallo sciopero dei ferrovieri, di cui vi avevamo dato notizia proprio su queste frequenze il mese scorso, la situazione è totalmente degenerata. Varie lotte che sembravano scollegate tra loro, come quella degli universitari in sostegno ai migranti, e quella appunto dei ferrovieri, le lotte locali della ZAD di Notre-Dame-des-Landes, hanno trovato il modo, anche grazie, possiamo dirlo, a azioni abbastanza avventate del governo, che ha deciso di giocare la partita repressiva su tutti i fronti che aveva disponibile. Queste lotte hanno trovato il modo di unirsi e veramente sembra che andremo verso un maggio che farà rimpiangere a qualcuno il maggio del 68, come forse avete visto anche sulla foto che è girata molto, di quel treno pittato a Nantes che recitava appunto "Vous allez regretter le..." Ora non so come si dice 68 in francese, perché sono scarso. da cosa iniziamo? Andiamo in ordine? Bene, iniziamo allora. Sì, proviamo a dare un ordine a tutto questo, appunto, questo blocco sociale, potremmo dire, si fronteggia in Francia. E quindi andiamo per ordine, appunto, sì, un ordine che decidiamo in questo momento in realtà, perché non esiste un vero ordine se non temporale, e quindi non lo staremmo rispettando. Parlando della ZAD, appunto, perché appunto la ZAD, dopo aver seguito una settimana di sgombero, uno sgombero violentissimo della gendarmerie francese, domenica, quindi ieri, c'è stata la giornata che era chiamata appunto di sostegno alla ZAD e di ricostruzione delle case, dei luoghi comuni distrutti durante lo sgombero, che ha visto una grossa partecipazione. Quindi leggiamo da Non Tre Volte, pagina Facebook, appunto citata anche in altre puntate in realtà, che c'è una particolare attenzione alla ZAD, un resoconto appunto della giornata di domenica, più che delle giornate precedenti, perché sulle giornate precedenti poi ci arriveremo. Comunque si tratta di sostanzialmente giornate, lunghissime giornate di scontri, di una violenza inaudita, e avremo modo di leggere anche degli articoli riguardo appunto quello che è successo e appunto le operazioni di polizia, come si sono svolte. Quindi andiamo con domenica. La casa ambulante Notre-Dame-des-Landes, 15 aprile. La struttura di una casa scivola sopra le erbe alte nei campi del Bocage Nantes, attraversa i fossati e le paludi, viene sollevata da una marea umana che si intrufola tra le innumerevoli dighe di guardie che assistono impotenti a distanza all'ingegno degli zadisti. Questa scena magica, come uscita da un cartone animato di Miyazaki, si svolge domenica 15 aprile, una settimana dopo l'inizio dell'assalto militare sulla zona. Più di 10.000 persone sono date appuntamenti per ricostruire. La folla è immensa, anche se molti gendarmi bloccano gli accessi che portano alla ZAD. e centinaia di persone sono state rimbalzate dai punti di controllo. Dopo aver solennemente ripreso i bastoni piantati per terra della fattoria di Bellevue, 2 anni prima, promettendo di tornare a difendere la zona in caso di attacco, la folla si allunga per raggiungere un terreno le cui case sono state distrutte questa settimana, per ricostruire. Un enorme dispositivo armato impedisce la progressione del corteo. Dopo un lungo faccia a faccia, costellato da battiture sulle barricate, la futura capanna riesce finalmente a passare sotto la foresta, lontano dal campo, aggirando i posti di blocco. Un taglialegna apre le siepi e guida il corteo, sempre più denso. Questo pomeriggio ha il sapore di gas lacrimogeno, dove ci sono il fronte della gendarmerie, avvengono scontri per ore molto violenti. Gli scoppi di granate, sempre più ravvicinati, fanno tremare i colpi e sollevano zolle di terra a diversi metri d'altezza. Un blindato esegue una carica massiccia e, accompagnato da un bombardamento intensivo sia dei manifestanti con i sassi e con le molotov, sia da decine di granate esplosive inviate a raffiche insieme ai colpi di proiettili di gomma in mezzo a questa saturazione di gas. I nostri giornalisti, seppur abituati a situazioni tese, non hanno mai visto una tale furia. In questo momento sembra quasi certo che si stia producendo un dramma, tanto che in tutto il campo si sente gridare «medicine, medicine», correre e trasportare feriti insanguinati al volto e alle braccia. Nel frattempo, nel campo della Wardin, è edificata l'imponente struttura di un fienile collettivo. Al calare della notte, dopo la partenza dei militari, sarà trasportata verso la trincea che era stata distrutta con un bulldozer. Loro distruggono, noi ricostruiamo. Per lunedì mattina, quindi per oggi, la gendarmeria lancia un'offensiva contro la ZAD per continuare a distruggere quello che viene ricostruito. Appunto, questo è il resoconto della giornata di ieri, che ha visto una grossa partecipazione da settori di società francese, che infatti anche nei giorni scorsi è stato dato un appoggio alla ZAD notevole, perché se, come dicono i giornali, gli zadisti, che hanno difeso appunto il territorio da questo attacco che è durato in maniera intensa 5 giorni, perché è durato fino a venerdì, si parla di poche centinaia, il sostegno che appunto questa lotta ha avuto da parte degli altri soggetti in lotta in queste settimane è stato notevole. Infatti appunto le università, che sono occupate circa una trentina, nonostante siano avvenuti, andremo a vederli, diversi sgomberi da parte di sia di fascisti che della polizia, molte ZAD hanno cercato di declinare molte facoltà hanno cercato di declinare l'immaginario della ZAD all'interno della facoltà, quindi come un luogo autonomo, un luogo da difendere, un luogo dove si cerca di vivere un progetto alternativo. E anche appunto il comitato locale, quindi della Loire Atlantica, della CGT, ha appoggiato e ha partecipato alla manifestazione Sostegno alla ZAD che è avvenuta sabato di seguito al corteo del blocco sociale che appunto riuniva gli studenti dell'università e i ferrovieri. Appunto quel corteo lì, che ha avuto luogo alle 2 del pomeriggio, è confluito poi nel corteo sempre a Nantes delle 4:30, che era il corteo in difesa alla ZAD, che appunto ha visto una partecipazione ancora più ampia al primo corteo. Per cui esatto, questo qui, rispetto a questa questione, si è venuta a creare appunto una convergenza di lotte che diciamo è un po' il modo di rispondere forse più adatto a quella che è l'offensiva del governo francese in questo momento, perché appunto quello che è successo in questi giorni è che, nonostante appunto lo sgombero della ZAD fosse annunciato da settimane, non per la data in cui poi è avvenuto, ma che ne avevamo parlato anche insieme, appunto quando quando il governo ha rinunciato al progetto dell'aeroporto, ha anche annunciato che avrebbe appunto sgomberato l'illegalità che appunto si era venuta a creare e che era al di fuori dello Stato francese all'interno di quel territorio. E in questo momento è stato deciso di aprire questo nuovo fronte anche per rispondere probabilmente a questa offensiva sociale che viene dai lavoratori delle ferrovie e dal corpo studentesco. Bene, a questa risposta pare ci sia stato appunto una convergenza di lotte che è stata in grado quantomeno di dare un segnale chiaro e unitario alla controparte. Sì, è difficile dire secondo me se cioè, queste cose siano state intenzionali o se magari l'intervento sulla ZAD era già stato programmato prima che si aprisse questo forte mese di contestazione, perché sicuramente cioè, da parte di Macron sembra una mossa molto avventata, cioè nel momento di massima difficoltà sinora del tuo governo, dove hai quasi tutti i lavoratori del servizio pubblico in sciopero e un sacco di università dove la didattica è bloccata, cioè aprire anche questo fronte è una cosa che rischia magari di dare ulteriore forza al movimento di contestazione piuttosto che raggiungere l'obiettivo che ti eri proposto, cioè quello di reprimerlo. Quindi anche da questo punto di vista dobbiamo vedere se ovviamente cioè, si riuscirà a tenere testa anche a questo fronte, ma per ora non sembrano esserci stati problemi. Quindi andando avanti su appunto una cronaca di quella che è stata l'ultima settimana in Francia, senza continuare a leggervi lunghe resoconti, lunghi articoli, giusto per fare un resoconto appunto, ci sono state una trentina di occupazioni di facoltà, in diversi casi attaccate dai fascisti e diversi sgomberi anche. Ci sono stati sgomberi all'università di Tolbac a Parigi e a Montpellier, attaccati dai fascisti e anche a Lille, per quanto mi sembra aver letto, ora ci arrivo forse con più precisione, scusate. E inoltre appunto ci sono state diverse manifestazioni di sostegno agli scioperi che stanno, quelli dei ferrovieri, che stanno continuando da ormai quasi una ventina di giorni e che sono annunciati per almeno altrettanti giorni. E scioperi che funzionano con appunto una programmazione su un calendario, perché non è uno sciopero appunto illimitato in assoluto, ma che avviene 3 giorni su 5, questo ho avuto modo di scoprire nei giorni scorsi, e che appunto sta mettendo notevolmente in crisi in realtà tutto il sistema delle infrastrutture francese e sta trovando un grosso sostegno da parte dei corpi sociali della sinistra francese. Infatti ci sono state sabato 14 erano annunciate diverse manifestazioni, si è svolta a Montpellier la manifestazione nazionale nella forma del cortege de tête degli studenti francesi in seguito alle violenze avvenute appunto contro l'università francese, è stata prima l'università di Montpellier, che è stata prima attaccata ai fascisti e in seguito anche sgomberata. E invece ci sono state appunto, abbiamo detto, a Nantes, inoltre ci sono state anche a Marsiglia e a in un'altra città che ora mi sfugge, devo riuscire a trovare, scusate, dove ho segnato queste robe, manifestazioni appunto dei sindacati e della sinistra francese, che hanno visto diverse migliaia di persone scendere in piazza, talvolta appunto in un clima molto tranquillo come quello di Marsiglia, o in un clima molto teso come a Nantes appunto per la convergenza sulla questione della ZAD, che ha causato da subito grossi scontri della polizia, e appunto un grosso sostegno a tutte le singole lotte, sono sapute riconoscere. Addirittura il manifesto, qui non abbiamo modo di leggerlo, purtroppo per fortuna, insomma, perché non so se lo sapete, ma il manifesto online è a pagamento, però addirittura il manifesto ha fatto un articolo rispetto alla convergenza delle lotte andata in scena nella città di Nantes. Chiudiamo qui la questione, andiamo con leggiamo un altro sì, articolo. Sì, andiamo avanti, dai. Abbiamo una roba degli studenti, altrimenti, ma commenti, ma cioè sicuramente ci sarebbero molte cose da dire su questa situazione. Ora purtroppo qua i nostri spazi non ci consentono di andare al di là magari di un'informazione che proviamo anche di volta in volta ad approfondire un po', però è ovvio che le potenzialità dell'argomento sono così sconfinate, sono successe così tante cose nell'ultimo mese in Francia e probabilmente altre ne succederanno nel prossimo mese, che è complicato affrontare tutto nello spazio ristretto che ci è concesso da questa rassegna stampa. Infatti già ci stavamo scordando, io c'ho un'altra roba, voglio dire, rispetto alla Francia, che il processo di Tarnac, per chi ne ha sentito parlare o per chi non ha sentito parlare, magari invito a cercare qualcosa, a leggere un pochino, perché ora non abbiamo tutto questo tempo. Comunque si tratta di un'operazione repressiva che ha avuto uno stampo di natura antiterrorista 10 anni fa, che è stata molto mediaticizzata e molto spinta in Francia, che ha avuto il suo epilogo giudiziario appunto in questa settimana. Il verdetto è che tutti sono stati assolti e appunto questo è stato l'ennesimo colpo all'apparato repressivo francese, perché tutta questa, se in Italia siamo più abituati a episodi di questo genere, in Francia una montatura giudiziaria così grossa, che poi vede tutti gli imputati assolti, per un fatto anche così mediaticizzato, c'erano addirittura dei siti di informazione che nelle loro pagine Twitter o Facebook facevano la diretta del processo, ha visto tutti assolti. Beh, questo episodio è stato appunto un duro colpo per l'apparato repressivo francese, ha speso milioni, forse migliaia sicuramente di euro in servizi di intelligence per poi appunto ottenere un nulla di fatto, ecco. E probabilmente in settimana avremo anche modo di organizzare qualcosa per approfondire questi argomenti, anzi qualcosa abbiamo già in cantiere, purtroppo ancora non calendarizzato per flessibilità riguardo agli ospiti da contattare, però rimanete informati e sicuramente ci sarà modo di incontrarci anche dal vivo per discutere di queste cose. Ma mettiamo magari un pezzo musicale e poi passiamo agli altri argomenti caldi della giornata. Oh my God, it's summer, right? Bentornati alla nostra rassegna stampa e affrontiamo ora le notizie che ci arrivano da uno dei punti del globo che rimangono più caldi per degli stati avvenimenti, che è ovviamente il Medio Oriente. E il fatto particolarmente eclatante della scorsa settimana, come avrete sicuramente sentito, è stato l'attacco della coalizione formata da Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, ribattezzata la coalizione dei volenterosi, alla Siria. Un attacco che è seguito al presunto utilizzo da parte del regime di Damasco di armi chimiche nell'Est Ghouta, che è questa zona che è comunque nei dintorni di Damasco. Ovviamente ci sono state le ovvie smentite del caso riguardo all'utilizzo di queste armi. Siria e Russia negano che siano state utilizzate, però il fatto è che a seguito dell'utilizzo di armi proibite da convenzioni internazionali di guerra dovrebbe seguire ovviamente un'analisi dell'ONU che attesti se queste armi sono state utilizzate oppure no. Ovviamente con molta arroganza Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna non hanno minimamente aspettato lo svolgersi di queste commissioni d'inchiesta e praticamente hanno creduto sulla parola o comunque su la visione di video al fatto che queste armi chimiche siano state utilizzate, e hanno iniziato a bombardare la Siria. Bombardamenti che comunque non hanno sortito molti effetti, perché evidentemente la Russia ha avuto il tempo di appuntare le difese missilistiche siriane per resistere anche a questo tipo di bombardamenti, fatto che lascia anche un po' aperta la possibilità di magari un intervento sul campo da parte di questa coalizione. Boh, che dire, sembra un po' di essere tornati al periodo successivamente, cioè immediatamente precedente all'intervento in Iraq, dove, non so se vi ricordate, l'allora amministrazione Bush utilizzò proprio il pretesto dell'utilizzo di armi chimiche da parte del regime di Saddam Hussein, per andare poi ad avviare quella che a livello di geopolitica della zona è stata una delle operazioni più disastrose guidate dagli Stati Uniti nel mondo. Infatti possiamo forse proprio vedere nella destabilizzazione compiuta ormai più di 15 anni fa dell'Iraq l'origine di tutte le crisi, soprattutto legate al terrorismo islamico e al potenziamento dell'Islam politico radicale che si sono avute nell'area. Vi ricorderete che allora il segretario di Stato americano dell'epoca, che se non sbaglio era Colin Powell, non so come cazzo si pronuncia, fece questo servizio pubblico dove addirittura agitò una provetta dicendo che là dentro c'erano le prove che erano state utilizzate armi chimiche in Iraq, prove che poi si rivelarono falsificate dalla CIA, e lo stesso Colin Powell ammise che quelle prove erano falsificate, anche se disse che lui all'epoca non poteva saperlo perché le informazioni gli erano state fornite dalla CIA. E quindi questo intervento sicuramente va a complicare molto quello che è lo scacchiere medio orientale, apre anche a nuove crisi politiche tra i vari attori dell'area, quindi da una parte ovviamente la Siria e il suo alleato più grosso, la Russia tout court, perché in questo momento il regime di Damasco, il regime di Assad, non è altro che una marionetta nelle mani della Russia, e dall'altra parte le grandi potenze dell'Occidente, che ormai grandi potenze non sembrano più, che sicuramente agiscono in maniera dissennata e anche molto, molto istintiva a volte, semplicemente magari per andare dietro all'umore elettorale del momento. In tutto questo ovviamente c'è la Turchia che sta alla finestra, e dopo aver completato l'annessione del cantone di Afrin strappato ai curdi, sembra che stia rafforzando la presenza di forze al confine con la Siria, anche costruendo basi militari in quello che è lo spazio, cioè le zone della Siria sotto controllo dei ribelli del regime di Damasco, e quindi anche la presenza di questo attore nella zona che non si è capito ancora bene cosa voglia, che sicuramente persegue le sue politiche, che sono politiche imperialiste nella zona, però lo fa in maniera molto subdola, e forse finora è risultato il vero vincitore di questa guerra, perché sta facendo un po' quello che gli pare sotto il sostanziale silenzio delle potenze occidentali, che anzi hanno dovuto anche incassare diversi schiaffi da parte della Turchia stando zitti. Vi ricorderete forse il caso della nave italiana dell'Eni sequestrata per più di una settimana nelle acque di Cipro, o comunque i vari interventi di Erdogan dove accusava l'Occidente di essere il primo sponsor dei terroristi, quando in realtà sappiamo che quasi tutta la fornitura logistica dell'ISIS proviene dalla Turchia. Quindi la Turchia in tutto questo sta alla porta e non si capisce cosa intende fare della zona di Afrin, che secondo comunque le convenzioni internazionali sarebbe una zona siriana. E la Russia nell'ultima settimana ha più volte richiesto alla Turchia di cederla alla Siria, cioè di restituirla alla Siria, quindi di ritirarsi da quelle zone. E questo potrebbe costituire una potenziale pedina di scambio che ovviamente farebbe le spese dei curdi, perché non è difficile immaginare uno scenario dove la Turchia si accontenta di avere la zona di Afrin non sotto il proprio diretto controllo, ma comunque di farci stabilire una popolazione prevalentemente araba, islamizzata, che quindi sunnita, che sarebbe molto più facile da controllare e da piegare ai propri fini politici, di restituire quella zona al regime di Damasco, alla Siria, e questo potrebbe voler significare una potenziale via libera dei russi a un intervento in quello che resta del Rojava sotto il controllo dei curdi, quindi le varie zone di Manbij, di Kobane, e perché no addirittura un potenziale intervento nel nord dell'Iraq, dove il PKK ha le sue basi storiche. Quindi in tutto questo è veramente buffo pensare che forse in questo momento la miglior cosa da sperare per i curdi sia appunto che gli americani impediscano questo intervento. Americani che veramente fa strano pensare all'America come un possibile alleato di una rivoluzione, di forze rivoluzionarie, ma sono forse veramente l'unico attore che in questo momento è interessato a debellare totalmente il terrorismo, almeno in questa zona del mondo, e quindi sono gli unici che potrebbero sostenere una stabilizzazione della zona a guida curda. E la situazione è veramente un macello. Come vediamo, cioè, le potenziali alleanze cambiano di giorno in giorno, se non di ora in ora. E tutto quello che possiamo fare noi è ovviamente continuare a sostenere con le nostre possibilità questa rivoluzione, che mai come in questo momento, forse anche più che nei giorni dell'assedio di Kobane, sembra veramente scricchiolare, sembra veramente sotto attacco, ma tutti sappiamo, tutti abbiamo imparato a conoscere ormai lo spirito guerriero della popolazione curda e anche della popolazione araba, che ovviamente prende parte a questo importante esperimento rivoluzionario. Hanno più volte sono riusciti veramente a vincere dove sembrava impossibile riuscirci, sono riusciti a resistere in condizioni disperate, e ci hanno abituato a sorprenderci in ogni occasione, e speriamo veramente che anche stavolta riusciranno a cavarsela, a tirare fuori dal cappello un'altra delle loro carte, con cui in questi anni sono riusciti veramente a costruire un'esperienza rivoluzionaria e di autogoverno della zona, che a queste latitudini, ma non solo a quelle latitudini, non aveva assolutamente precedenti. E il Medio Oriente ovviamente non si ferma solo alla Siria. No, esatto, quindi andiamo a parlare quindi di Gaza, che c'è stato il terzo venerdì di protesta, appunto lo scorso venerdì, contro, appunto, contro l'occupazione israeliana. E segnalo un articolo di nenanews.it che appunto si titola Gaza, terzo venerdì di protesta, un morto e quasi 1000 feriti. Per i palestinesi è il venerdì delle bandiere, per Tel Aviv il venerdì delle Molotov. Migliaia di Gazawi parteciperanno alle manifestazioni a ridosso delle linee di demarcazione tra la striscia e lo Stato ebraico. Qui bruceranno le bandiere israeliane e saranno quelle palestinesi. Si teme un'altra giornata di sangue. E infatti così è stato, dove appunto ancora una volta i cecchini dell'esercito israeliano hanno sparato sulla folla, appunto causando quasi 1000 feriti e causando un morto, Islam Erzallah, di 28 anni. E appunto avevamo visto anche nelle settimane scorse come ci fossero stati diversi morti alla prima giornata a ridosso del confine, oltre 10 morti mi sembra. E vi segnalo questo articolo, non sto a leggerlo, è una serie di aggiornamenti rispetto a come è andata la giornata. E ovviamente esprimiamo solidarietà al popolo palestinese ancora una volta. E andiamo quindi adesso, un altro articolo che volevo segnalarvi per chi legge l'inglese è riportato da It's Going Down, sito di controinformazione americano, che parla dell'attacco della NATO in Siria e parla anche, avevamo già visto, della ZAD, riporta diversi articoli e riporta azioni in sostegno, manifestazioni in sostegno alla ZAD che sono svolte in territorio statunitense. Questo per segnalarvi alcuni interessanti siti da cui si può trovare informazioni riguardo a quello che succede nel mondo. Andiamo quindi, non so, potremmo parlare, c'è stato, passiamo alla radio cugina, anzi zia per essere più corretti forse, Radio Onda Rossa, dal loro sito internet ondarossa.info, riporta un articolo sul movimento NoTap, dove c'è anche un'intervista ad un compagno che, se volete, avrete modo di ascoltarvi. L'articolo è molto breve, ve lo leggo. Cariche è di mercoledì 11 aprile. Cariche fermi questa notte a San Foca di Meledungo, in Salento, dove i NoTap stavano bloccando una strada provinciale che collega il capoluogo di provincia Lecce a Meledungo, la via che i mezzi del TAP usano per appunto per i cantieri. Sono in tutto 4 i compagni e sono stati portati in questura, di cui 3 già liberati. Per pretendere la liberazione del quarto attivista NoTap, diversi comitati sono stati in presidio sotto la questura di Lecce. Segue appunto il racconto di questo compagno che è stato intervistato da Radio Onda Rossa. Sinceramente non so darvi notizie sul quarto fermato, spero sia stato liberato. Sempre rimanendo su, andiamo con una carrellata di informazioni, sempre rimanendo su Radio Onda Rossa, rilancia la giornata, la manifestazione per il corteo, la manifestazione in solidarietà con il processo per i fatti del 3 luglio in Val di Susa, che era attesa la sentenza di Cassazione, quindi la sentenza definitiva riguardante i 53 imputati, era attesa per la scorsa settimana ed è stata rimandata al giorno 27 aprile. Maggio. Aprile, sì, di 2 settimane per vizi di forma, cioè non erano state notificate delle cose, cioè in realtà non si è manco capito troppo bene, perché di vizi di forma in questa inchiesta ce n'è stato più di uno, ecco. Chiamiamoli vizi di forma per non usare altre parole più spregevoli. Quindi niente, purtroppo il destino dei 38 imputati per queste due importanti giornate di resistenza che si svolsero nel 2011 dovranno aspettare ancora un paio di settimane per scoprire qual è il destino che gli attende. Esatto, nel frattempo il movimento Notav lancia, a seguito di un'assemblea popolare, lancia per il 19 maggio una manifestazione. Leggo velocemente da notav.info: il popolo Notav si è trovato ieri in assemblea a Bussoleno per organizzare le prossime iniziative. L'assemblea era convocata per rispondere alla sentenza del maxi processo, che poi è slittata al 27 aprile. Serata partecipata e determinata, nella voglia di farci sentire, nel ribadire ancora una volta le nostre sempre più forti convinzioni di essere dalla parte del giusto, rivendicando ogni momento della nostra lotta. Abbiamo deciso che è arrivato il momento di fare una grande manifestazione per ribadire la nostra vitalità, per organizzare un'altra tappa del nostro percorso che non ha intenzione di fermarsi, neanche un momento. Per questo, il 19 maggio 2018 sarà manifestazione Notav da Rosta ad Avigliana. Perché abbiamo ragione più che mai, perché si parte e si torna insieme sempre. Quindi invitiamo alla partecipazione chiunque ha modo di andare appunto a partecipare al corteo Notav. Da qui al 19 maggio. Sì, abbiamo tutto il tempo per organizzarci. E Notav che sono espressi in solidarietà con la ZAD, visto anche la vicinanza delle due lotte a livello politico e anche di solidarietà. Ci sono stati numerosi momenti di incontro negli anni e in qualche modo le giornate del 27 giugno e del 3 luglio, per cui adesso si sta arrivando alle sentenze definitive, hanno un che di simile, non certo per durata, ma per caratteristiche di intervento della polizia e per caratteristiche di resistenza a quelle avvenute a Notre-Dame-des-Landes in questa settimana. Quindi insomma, siamo sempre su temi molto simili e due lotte hanno saputo incontrarsi molto bene in questi anni. Torniamo con un po' di musica, così poi andiamo in chiusura, abbiamo l'ultima mezz'ora. Vuoi mettere qualcosa a te? No, non sono mai stato bravo a fare il DJ, se non quando metto la trap, che però mi è interdetta da... Sì. Allora andiamo sui classici. Dal comitato centrale di Radio Wombat, che ha deciso che non deve passare trap. Allora la censura ci passa... Passenger, he rides drives and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. He rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Tornati con Radio Wombat, vi segnalo alcune notizie da Padova per quanto riguarda l'11 e il 12 aprile, leggo da radiazione.info, Radio Popolare Online di Padova, 11 aprile 2018, lo strano sgombero del quadrato meticcio. Questa mattina intorno alle 8 polizia e operai si sono recati in piazza Caduti della Resistenza a Padova per sgomberare il Ciurmo, sede dell'associazione sportiva Quadrato Meticcio. L'associazione da vari mesi è in trattativa con il comune per la regolarizzazione dello stabile, attualmente sotto sfratto, che oltre ad offrire la possibilità ai ragazzi del quartiere di praticare attività sportive, a prescindere dalla loro condizione economica, ospita anche varie attività sociali inserite nel contesto del rione palestro. A fronte di questo, però, l'ATER, ente gestore dello stabile, ha continuato a richiederne la messa a disposizione e lo sgombro del quadrato. Richiesta esaudita questa mattina. A seguito della chiusura della sede, oltre 30 solidali si sono riuniti nella piazza antistante il Ciurmo, pretendendone la riapertura e ottenendo l'impegno da parte dell'assessore Marta Nalin a riaprire il posto entro oggi pomeriggio. L'appuntamento è fissato per oggi alle 18 davanti alla sede dell'associazione. L'invito è quello di esserci per chiunque ne abbia la possibilità. Troviamo di seguito un'intervista riguardo questo episodio. Andiamo invece al giorno dopo, quindi il 12 aprile 2018, sempre radiazione.info, l'infospazio Chinatown ancora sotto attacco, sgomberata la sede questa mattina. Si parla qui di un altro spazio sempre nella zona. Padova, a 24 ore dal tentato sgombero del Ciurmo, questa mattina alle 6.30, un ingente dispiegamento di celere, Digos e carabinieri hanno bloccato interamente via Varese per effettuare lo sgombero dell'infospazio Chinatown. Durante la mattinata, un nutrito gruppo di attivisti dell'infospazio e solidali ha dato vita a un presidio, trasformatosi poi in una manifestazione terminata davanti all'ATER, i cui dirigenti per tutta risposta si sono barricati dentro le mura della loro sede bloccando le entrate. Nel pomeriggio è poi stata lanciata un'assemblea aperta al quartiere per discutere di quanto accaduto, dalla quale è poi nata una seconda manifestazione per il quartiere e il rilancio di un presidio sotto il comune per lunedì mattina. Vi proponiamo di seguito il resoconto di quanto accaduto per bocca di una compagna dell'infospazio e il comunicato pubblicato in seguito alla giornata di oggi. Vado a leggere il comunicato, anche questo abbastanza breve. Lunedì 16 aprile, quindi per oggi, presidio sotto gli uffici ATER. Oggi, 12 aprile 2018, l'ATER, con la complicità della questura, ha deciso di sgombrare l'infospazio Chinatown. Un ingente dispiegamento di forze del disordine ha bloccato tutte le vie di accesso per chiudere un luogo che dal 98 è riconosciuto dal quartiere per le sue attività sociali, politiche e culturali, dal doposcuola per i bambini alla biblioteca, dalle presentazioni di libri alle iniziative popolari per il quartiere. Noi non siamo disposti a sottometterci alle mire di gentrificazione e speculazione del quartiere. 2 anni fa, con l'accusa di associazione a delinquere che ha colpito alcuni militanti del Comitato di Lotta per la Casa, hanno messo sotto sequestro l'infospazio Chinatown, poiché, a detta loro, il sodalizio criminoso si organizzava fra quelle mura. Da allora abbiamo chiesto innumerevoli incontri all'ATER per la riassegnazione del posto, ormai punto di riferimento per proletari del quartiere e compagni, senza mai aver ricevuto risposta. Dal 2016 abbiamo portato comunque avanti le attività perché siamo fermamente convinti che i veri criminali siano loro, che lucrano sulla vita della gente, mentre noi cerchiamo solo di rimettere al centro gli interessi della classe. Chiediamo con forza delle spiegazioni e delle soluzioni. Sostiene l'infospazio Chinatown, lotta con noi. Quindi appunto un attacco continuo alle esperienze di organizzazione a Padova, che nello stesso giorno dello sgombro dell'infospazio Chinatown, quindi il 12 aprile, c'è stato anche lo sgombro dell'ex Cinema Olimpia a Modena, di cui non, in realtà non so trovarvi niente di specifico, l'avevo letto nei giorni scorsi. Sì, infatti nello stesso identico giorno il Cinema Cavour, scusate, non il Cinema Olimpia, il Cinema Olimpia era stato sgomberato a qualche mese fa, appunto a dicembre, e era stato occupato in seguito allo sgombero del Cinema Olimpia quest'altro cinema nel centro di Modena, il Cinema Cavour. Scrivono infatti gli occupanti: in seguito allo sgombero, Modena è al centro di un processo di trasformazione urbana che mira ad un'estensione del perimetro abitato, alla nascita di nuovi quartieri fantasma, allo svuotamento della concentrazione di abitanti del centro cittadino in funzione di una riqualificazione delle periferie storiche. Il centro emiliano è cinto da sede dei progetti speculativi che, in completa collusione con la classe dirigente, si adoperano per rubare sempre maggiore spazio. Nella speculazione edilizia, nella distruzione dei territori e nell'attacco ad ogni opzione di resistenza, ad uno sfruttamento sempre più generalizzato, la risposta è la lotta in tutta la città. Modena, che tra l'altro non so se lo sapete, ma è una, penso, delle città del nord Italia dove è più alta il reinvestimento di capitali da parte della mafia, e si è calcolato che Modena fallirebbe se sequestrasse tutti i capitali mafiosi che ci sono investiti. L'hai fatto te questo studio? No, l'avevo letto da qualche parte, non mi ricordo dove. Interessante. Un'altra notizia flash da Milano, invece, dove venerdì c'è stata un'azione dei riders di Deliveroo, che si sono presentati alla sede di Deliveroo Milano in via Ettore Ponti, e per ovviamente richiedere una voce in capitolo nelle ricontrattazioni contrattuali che l'azienda sta attuando. La risposta è stata la polizia, come sempre, e comunque la lotta dei riders continua. Oggi a Bologna ci sarà l'assemblea nazionale di questa nuova categoria professionale che il capitalismo del nuovo millennio ci ha portato, e continuiamo a sostenere le loro lotte. Rapidamente passiamo a altre notizie che invece ci arrivano dall'estero, per avviarsi verso la chiusura anche di quest'altra settimana di informazione di Radio Wombat. A Barcellona ieri, quindi domenica, per chi ci ascolta in differita, c'è stata un'enorme manifestazione per chiedere la liberazione di tutti i prigionieri politici. Secondo gli organizzatori sono stati 750.000 i partecipanti, numeri quindi incredibili, cioè enormi. evento promosso da Espai Democrazia e Convivência, che è un'organizzazione che raggruppa diversi movimenti sociali e diversi sindacati. E comunque la manifestazione, oltre che richiedere la liberazione dei prigionieri politici, ha ovviamente ribadito la richiesta di indipendenza della Catalogna, auspicando che la soluzione si possa risolvere attraverso un dialogo politico, mentre Madrid continua a fare orecchi da mercante e va avanti sulla strada della repressione poliziaria e giudiziaria. Mentre altre notizie ci giungono dalla Libia, dove qualche giorno fa, non mi ricordo se ieri o ieri l'altro, si è sparsa la voce della morte del generale Haftar, voce che a quanto pare è stata subito smentita. Sembra che Haftar non sia in realtà ancora morto, però è ricoverato in Francia in situazioni abbastanza critiche. E Haftar è, ricordiamo, uno degli uomini forti della Cirenaica, e ha fatto la rivoluzione del 61 a fianco di Gheddafi, e poi è stato successivamente allontanato dal potere la rivoluzione del 69, non del 61, per avventate scelte militari. E dopo la morte di Gheddafi è tornato dall'esilio in cui viveva negli Stati Uniti, e è riuscito a trovare un accordo tra i vari clan, le varie tribù che controllano la Cirenaica, e a imporsi come uomo forte libico, anche in opposizione al governo libico con sede a Tripoli, appoggiato dall'Occidente invece. La potenziale scomparsa di questo uomo ovviamente riapre la scena per varie lotte di potere che possono avvenire in questa zona della Libia. Comunque lotte di potere che non toccano molto anche le varie situazioni italiane rispetto anche alle migrazioni che vengono dalla Libia, perché infatti gli accordi del governo italiano non sono con lui, ma sono con i governanti di Tripoli. E in tutto questo, tra l'altro, sembra che sia rispuntato anche uno dei figli di Gheddafi, che potrebbe presentarsi alle future elezioni del governo libico. Insomma, anche questa zona del mondo purtroppo non vive tempi troppo positivi. Bene, siamo in chiusura, direi. Abbiamo altre notizie che vogliamo dare? Forse no, perché sto leggendo dai giornali mainstream non c'è veramente, vi assicuro, niente di interessante, nonostante il mondo ne succeda mille ogni giorno. Sì, la cosa più interessante che è successa questa settimana è il nuovo meme su Berlusconi, non so se l'avete vista. Sì, è molto bello, quella dove fa 1, 2, 3. Andate a cercarvelo se non lo conoscete. Sì, perché se scorriamo, non so, tipo il Corriere, che è vagamente più interessante di Repubblica in quanto a temi, non parla di niente di che, tipo il vestito di Virginia Raggi al gala della Formula E, o il fatto che continuiamo a non avere un governo, ma diventa anche un po' poco interessante parlare di questo teatrino che si sta protraendo da settimane. Ah, l'unica notizia della settimana è che se a Roma non hanno fatto la rivoluzione mercoledì sera dopo che la Roma ha battuto il Barcellona, probabilmente non la faranno più, quindi compagni romani, arrendetevi, mi dispiace, ma non ce la farete mai. Bene, quindi vi salutiamo con, come al solito, con un pezzo musicale. Intanto vi diamo ancora una volta i contatti di Radio Wombat, quindi dal sito wombat.noblogs.org, da invece su Twitter Radio Wombat Fi, Facebook radio-wombat-firenze, per scriverci in mail invece postawombat@insiberia.net. Potete ascoltarci anche in onde medie, in AM, alla frequenza 1359. E andiamo adesso con un pezzo musicale e poi vi lasciamo al programma seguente, che vi diremo anche qual è, perché in questo momento non lo so. Quindi ascoltiamo adesso... Come ogni lunedì, Senza Frontiere. Perfetto. E a seguire c'è... Quindi si continua a parlare di internazionalismo, di lotte che accadono lontano dalle nostre terre, mentre a seguire, ovviamente, per bilanciare, c'è Passaggio a Nord-Ovest, dove invece parliamo proprio di quello che ci succede sotto il naso nella nostra bellissima periferia settentrionale della città. Quindi dal globale al locale. Andiamo adesso con i Propagandi, con Fuck Religion. Fuck religion. call me when